avanti chi era? Avanti la portante chi era? Avanti? Avanti se ne ascolti. Avanti se ne ascolti. Thank you. sole che fruscende. Chi è che fischia? Avanti. Cicco 10, Cicco 10. Sentirti, ma adesso vado a fare quello che devo fare. Sì, fai pure, fai.